gli speciali di Radio 24. Università, speciale, test d'ingresso. Eh sì, perché una volta c'era la notte prima degli esami, ora c'è anche la notte prima del test. Ebbene, perché domani inizia la giostra dei test d'ingresso nelle università numero chiuso, un appuntamento davvero importante e impegnativo per i nostri studenti, perché in molti casi la partita che si giocano in questi giorni è davvero fondamentale, non solo per il loro futuro formativo, ma anche per quello lavorativo. E allora ci sono ragazzi che non mollano, lo tentano per 2-3 anni di seguito, perché hanno deciso che loro, i medici, davvero lo vogliono diventare a tutti i costi. Ci sono ragazzi che lo provano così, tanto per provarci, sfidare la sorte, magari a dispetto di altri compagni che si impegnano, studiano, si preparano, gli va pure bene. E poi ci sono le università, chiamate ad uno sforzo organizzativo tutti gli anni non da poco, quest'anno in particolare, visto che i test sono stati anticipati in primavera ed è la prima volta in Italia. Ci allineiamo così ad altri paesi europei con tutti i pro e contro della vicenda. E poi ci sono gli insegnanti dell'ultimo anno delle superiori che in questi giorni sono costretti a fare i conti con questa novità. Gli studenti sono più concentrati sul test che sui programmi dell'ultimo anno che li condurrà poi alla maturità e insomma sono un po' distratti e gli insegnanti si devono fermare. Di tutto questo parleremo oggi nello speciale che abbiamo deciso di dedicare a questo argomento. Resteremo insieme fino alle 23. Potete chiamare all'800 24 00 24 oppure potete mandare i vostri messaggi SMS al 349 238 6666. Se volete fare delle domande, se volete chiederci delle informazioni, siamo qua. E noi però introduciamo subito il nostro primo ospite ed è il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera, allora con lei iniziamo questo speciale, so che poi è un impegno quindi le rubiamo pochi minuti. Allora partiamo dalla novità di quest'anno, la novità sicuramente più importante, diciamo, più significativa è quella proprio del momento in cui si affronta il test, l'anticipo a primavera. È un anticipo che ha avuto una storia un po' tribolata, potremmo dire, no? Era stato anticipato, poi era stato disdetto l'anticipo, è stato riportato a settembre, poi di nuovo invece si è pensato di portarlo in primavera. Questo naturalmente porta notevoli vantaggi sia organizzativi per le università sia organizzativi anche per gli studenti, perché chi non ce la fa può in qualche modo, come dire, no, organizzarsi e tentare un'altra strada o ipotizzare un futuro diverso. La prima domanda che le faccio, ministro, è proprio questo: sarà mica il terzo ministro a cambiare periodo di svolgimento dei test? Ma guardi, io non sono per i cambiamenti gratuiti, perché si cambia quando si vuole migliorare e si ha un'idea chiara di come migliorare. Questo è il motivo per cui, anche volendo, preciso, non avrei potuto cambiare nulla, perché sono arrivata al Ministero, come ricorderà e come ricorderanno gli ascoltatori, un mese fa, e quindi mettersi a discutere un provvedimento che aveva una sua corsa ormai avviata, imminente, sarebbe stato come fermare un treno in corsa. Assolutamente. E fare solo danni. Non questo opportuno per il presente. Per il futuro, ecco, mi sento di dire questo: ho naturalmente un ascolto molto attento, doveroso, a i contro oltre che i pro. No, i pro li ha già enunciati lei e quindi non sto a ripeterli. Non è che chi mi ha preceduto per un delirio, diciamo, certo, di perfidia ha voluto dare una soluzione di conflitto tra lo studio per la maturità e lo studio per il test. Semplicemente si è ritenuto, ha ragione, in questo senso almeno secondo me, che anticipare in primavera significasse migliore organizzazione, migliore opportunità per gli studenti che eventualmente non lo superano, di orientarsi diversamente e tutto quello che è evidente. È chiaro che però, le dicevo, il mio ascolto doveroso va in questo momento e andrà nei prossimi mesi a tutti quelli che mi dicono: attenzione, perché gli studenti stanno orientando la loro concentrazione, le loro energie in questa fase cruciale dell'anno sulla partecipazione al test di ammissione, quindi questo va a scapito della loro serenità di preparazione all'esame. Sa, io penso che però, cioè, si fanno a volte dei cambiamenti che all'inizio sono sempre traumatici, solo perché sono cambiamenti e solo perché non si è ancora assestata l'idea, in questo caso specifico, che si possa benissimo studiare per la maturità e dimostrare di essere all'altezza del superamento di un esame di ammissione. Assolutamente. Quindi rifletterò e rifletteremo, ascoltate tutte le parti in causa, se sia opportuno per il prossimo anno mantenere questa scadenza o eventualmente pensare a una soluzione diversa, cioè una scadenza più vicina all'ingresso nell'università. Se la sente di raccomandare anche un po' di pazienza, un po' di tolleranza agli insegnanti invece dell'ultimo anno delle superiori, magari a chiudere un po' questo un occhio, guardi, no? Sono parole che mi permetto di dire, ho già citato in molti contesti, ma non per esercizio retorico che non mi interessa di fare, ma perché pazienza e tolleranza agli insegnanti, diciamo pure anche un po' di spirito e di sacrificio agli studenti va comunque richiamato, no? Perché è chiaro che se uno ha l'ambizione motivata, giusta, sacrosanta di fare della sua vita la professione del medico, che è una professione importante, fondamentale insieme ad altre nella società civile e nel ruolo che questa professione consente di esercitare, è chiaro che ha uno scalino in più da superare, no? Non siamo l'unico paese che ha un test d'accesso, questo dobbiamo ricordarlo. I paesi avanzati hanno forme diverse, no? I francesi, l'ho detto altre volte, sbarrano al primo anno, cioè dentro tutti, poi quelli che al primo anno non si dimostrano i migliori a casa. Questo è un sistema che apparentemente favorisce, ma poi dopo fa pagare uno scotto dopo un anno di investimento di vita, di sogni frantumati. E quindi cerchiamo di lavorare in una direzione, a mio parere, doverosa di dare le migliori soluzioni, ma partendo sempre dall'idea che ci si debba sacrificare un po' di più per ottenere grandi risultati nella vita. Certo, lei si è detta comunque un po' perplessa, in particolare sulla modalità quiz per il test di medicina. Ha in mente comunque un modello a cui ci potremmo ispirare, a qualche cambiamento? Ma non specifico, perché sono temi molto tecnici che vanno valutati con molta attenzione, quindi direi cose superficiali. Diciamo che questo test forse può essere perfezionato, sa, bisogna anche vedere i dati nella loro precisione. Faccio un esempio molto concreto: se si scopre, come forse potrebbe accadere a un'analisi attenta, che i migliori studenti usciti dalle scuole superiori sono quelli che mediamente vincono più facilmente il test d'accesso, allora vuol dire che il test è un test che diagnostica bene la competenza, che capisce? Quindi certo, sono tutti elementi che hanno una loro importanza poi nell'eventuale rivisitazione. Lei ha definito qualche tempo fa quella dei test un'anomalia tutta italiana, ovviamente si riferiva evidentemente non ad esempio a medicina, insomma ci sono alcune facoltà nelle quali il numero chiuso è quasi necessario, perché insomma bisogna in qualche modo definire un numero, però insomma è un'anomalia tutta italiana che va un po' rivista, perché ormai il numero chiuso dilaga anche in facoltà che appunto non sono medicina, non sono poi così necessariamente da regolare lamentare a livello numerico. Ma sa, intanto le università sono in regime di autonomia, e questo secondo me è un principio sacrosanto, no? Che va salvaguardato, anzi l'ho detto in altre occasioni, molto potenziato, non solo sotto questo profilo, io penso a tutta la parte gestionale e di politica universitaria. Devo dire che l'accesso all'università deve essere sicuramente l'applicazione di un principio del diritto allo studio, dell'articolo 34 della Costituzione, e noi stiamo cercando di lavorare per esempio nella eliminazione di quell'anomalia, quella sì tutta italiana, che ci sono idonei vincitori di borse di studio senza borsa di studio perché non ci sono soldi per pagarli, e questo è un conto. Il fatto che gli atenei in alcuni settori decidano di selezionare in accesso, no? E quindi di fare una scrematura non durante il corso di laurea ma all'inizio, non è di per sé un principio negativo. Ecco, sono due percorsi paralleli, uno è il diritto allo studio e l'altro è la selezione degli studenti migliori o comunque degli studenti più idonei a ricoprire a svolgere quel corso di studio e quindi a fare poi quel mestiere nella società successivamente. Io credo che insomma siano due elementi che in un buon sistema dell'istruzione superiore, cooperativo e competitivo a livello internazionale, debbano essere entrambi salvaguardati. L'ultima domanda poi la lasciamo ai suoi impegni. Il bonus maturità insomma è stato eliminato, però sarebbe anche un modo per riconoscere il valore del percorso scolastico precedente. È un po' un problema che non è stato risolto questo? Ma sa, anche quello è un busillis, anche quello sì, un po' italiano, nel senso che la contraddizione diciamo rispetto al suo potere anche qui diagnostico nel nostro paese, che non tutte le maturità sono uguali. Quello è un problema, però in qualche modo bisogna trovare il modo per valorizzarlo questo percorso scolastico, non si può far finta di niente. Ma lo si può fare, cioè, c'è un gruppo di studenti che, siccome sono fuori da un locale in cui non prendeva il telefono, mi stanno salutando. Sì, lo si può fare, secondo me, basta rifletterci con un po' di, insomma, di attenzione. Qualche idea in proposito, Ministro? No, non mi faccia dire cose che non abbiamo ancora approfondito, però grazie, mi stanno facendo gli auguri. Scusi, è il suo compleanno? No, un auguri da ministro, è un insegnante con una scolaresca. Ecco, quindi insomma in qualche modo va riconosciuto il percorso precedente, ma è ancora in una fase di studio, non ha ancora... Il test di per sé, solo il test rischia di far giocare la vita a una persona in una giornata, e questo è il principio, no? Che alla fine non è tanto facilmente accettabile. Su questo io sono molto d'accordo con chi la pensa, ecco, nella possibile revisione, però insomma non si possono improvvisare i correttivi. Assolutamente. Esistono tanti sistemi e ci sono eccellenti strutture internazionali che li adottano. Cosa diciamo a questi ragazzi che da domani iniziano ad affrontare i test? Domani si parte con medicina, come ben sa. Scusi, non ho capito, non ho sentito. Che tipo di consiglio vogliamo dare a questi ragazzi che domani affronteranno da domani inizieranno ad affrontare i test d'ingresso? Un augurio particolare, un consiglio particolare per chi non ce la fa, insomma, anche forse, no, il consiglio di una vita che è tutta da spendere anche in altri campi, o no? Ma sicuramente, in bocca al lupo il primo, ed è il più banale, ma anche forse scaramanticamente il più prezioso. In secondo ordine, affrontare una prova è sempre una grande esperienza, secondo me. Bisogna misurarsi, no? sull'orizzonte dei nostri sogni. Poi, se non si riesce, si deve fare anche un'attenta valutazione. Se è stata, per carità, talvolta nella vita succede, una congiuntura astrale complicata, oppure se c'è qualcosa da migliorare. Allora è uno stimolo anche per migliorarsi per il futuro. Grazie Ministro, buonanotte. Grazie a voi. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Per parlare dei test d'ingresso all'università, domani al via con la prima prova con medicina, poi seguiranno anche gli altri, una serata bella tesa questa per i ragazzi che dovranno affrontarlo domani. E noi salutiamo il nostro secondo ospite, il rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. Buonasera. Buonasera a voi, ascoltatori. Allora, tutto pronto all'Alma Mater per domani? Sì. Quest'anno, siccome Bologna la fiera è occupata da Cosmoprof, ci siamo trasferiti alla fiera di Rimini, i colleghi mi hanno telefonato, i colleghi di medicina, sono tutti pronti, disponibili, hanno fatto già la missione oggi pomeriggio e quindi per domattina tutti schierati ai blocchi di partenza. Trucchi e profumi vi hanno cacciato dalla fiera di Bologna. Perché, ecco, questo il primo disagio l'abbiamo avuto anche noi, perché questo cambio, ci sono fiere programmate non di anno in anno, ma di quinquennio in quinquennio, quindi siamo dovuti emigrare, ma noi non siamo in esilio, perché l'Alma Mater è multicampus, si estende in altre 4 città, anche a Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Giocate appunto, più o meno in casa, certo. Siamo in casa. Ha sentito il ministro? No, ho sentito le ultime battute proprio le ultimissime. Non ha nascosto comunque le sue perplessità, insomma, quello dei test è un'anomalia italiana. Anche lei, tra l'altro, non è che anche a lei non piacciono molto questi test, qualche tempo fa ho visto una sua intervista, l'ha definito un male necessario, insomma. Sì, un male necessario, poi sarebbe bene evitarli i mali, perché non è detto che devono essere necessari per forza. Cioè, stando alle situazioni attuali, noi siamo ricorsi così al test, ma io credo che per una prova decisiva per i ragazzi, poi per una disciplina come anche quella di medicina, dove anche indagini serie dicono che è ad alto tasso vocazionale, io credo che non possa fidarsi alla lotteria di un test. Il test può essere uno strumento, ma a mio avviso dovrebbe avere dei fortissimi correttivi, cioè il curriculum scolastico per me deve essere un elemento da valutare, questo servirebbe a rendere molto più tonica la scuola, sappiamo tutti del balletto bonus sì, bonus no, io sono perché il percorso scolastico venga riconosciuto, ma non solo alla fine, alla maturità, dobbiamo togliere questo feticcio dell'ultimo dell'anno, anche tutto questo scompenso deriva dal fatto che spostiamo in avanti, rimandiamo l'impegno ingiustamente al quinto anno, all'ultimo anno. Tutti gli anni sono uguali e tutti devono essere impegnati. Io credo che, certo, poi c'è il discorso, l'Italia ha valutazioni impari, però se invece di andare al voto assoluto si vanno ai percentili, al miglior 10% di ogni regione, di ogni zona, credo che sia solubile, quindi quello del test è un mezzo, è convalidato, ci sono tante agenzie che l'hanno collaudato, credo che bisognerebbe andare oltre il test, l'ideale, ma lo dico così, non per insegnare il mestiere a nessuno, ma perché siccome vivo da quando ho preso il latte nella scuola e sono uno che vive di scuole per la scuola, io credo che un vero test sia quello anche per l'ideale sarebbe di un colloquio, anche di una prova scritta, ma questo... Quindi lei pensa delle prove, diciamo, diverse, sì, no? Sì, io penso a una prova diversa, ma questo chiama in causa che cosa? Diciamolo subito, chiama in causa... Perché si fanno i test? Perché sono... Più veloci, più semplici. Sono più veloci e fanno risparmiare. Qui, se invece vogliamo fare delle cose seriamente, degne di questo nome della scuola, non più Cenerentola ma regina del paese, allora uno ha il curriculum, la Moratti mi pare che avesse parlato di un portfolio, c'è un portfolio che alla fine ha la sua quotazione, ci mettiamo anche un test, se poi quel giorno il ragazzo sta male ha il portfolio che gli fa da rete di salvataggio, in più io credo che un colloquio per esaminare un ragazzo, ma qui poi cadiamo nel fatto che poi non si è più obiettivi, non si è più autonomi, perché questo paese non è mai in pari con se stesso. Io credo che un colloquio sarebbe importante, anche quello di una prova, ma questo cosa vuol dire per 10.000 ragazzi? Vuol dire strutture, vuol dire risorse, vuol dire laboratorio, vuol dire personali, vuol dire investimento. E chi ve le dà? E chi ve le dà tutte queste cose, esatto, a voi dell'università? Allora, ecco, se si vogliono fare le cose seriamente, non si possono fare le cose in due modi, o si fanno seriamente o non seriamente. Quello del test è un ripiego frettoloso da scuola guida che consente di risparmiare e di lavarsi la coscienza con poco. Invece io credo che laddove la scuola fossimo tutti convinti che fosse la priorità del paese, allora uno investe, allora fa il colloquio, allora fa una prova scritta, fa il test, il curriculum, tutti avremo più rispetto del lavoro degli insegnanti che sono questa classe che nel paese è una delle più mortificate. E adesso, chiaro che i test fatti in aprile vengono in maniera ortogonale, questo lo capiamo, per cui gli insegnanti che già sono demotivati vengono ancora più snobbati, io capisco. Chiaro, c'è l'altro pro, uno dice l'Europa fa così, 19 paesi fanno così, bisogna fare la sperimentazione, però ecco c'è un modo per fare le cose, ci sono i tempi, io credo che ci siano anche coi test delle tecnicalità, un modo per addolcire questo modo, la sperimentazione è chiaro che crea dei contraccolpi, questo è un paese che ha sempre paura di cambiare, non dobbiamo aver paura di cambiamenti, ma i cambiamenti bisogna gestirli, bisogna governarli, programmarli, si può fare tra il primo e il secondo semestre, se vogliamo stare al test che rimane un male necessario a mio avviso da superare, si può fare anticipando di 10 giorni la maturità i primi di luglio, forse si potrebbe fare come qualcuno suggerisce, non dico nulla di nuovo, anche al quart'anno. Sì, però, alcune università in effetti hanno già introdotto questa novità. Speriamo che il ministro o la ministra la stia ascoltando, perché insomma era un po' mi è sembrato un po' a caccia di idee per modificare e migliorare questo meccanismo, e lei ne sta tirando fuori davvero, davvero parecchie. Può restare con noi altri due minuti? Volentieri. Ok, allora ci fermiamo un istante e poi torniamo insieme. Peppers and run rock rhymes. I'm 50 cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas get their money right, cause I got mine. And I'm around quick playing, nigga, you can't shine. You gon' be that next chump, then end up in the trunk. after being hit by the pump. Is that what you want? Be easy, nigga. I lay your ass out. Believe me, nigga. That's what I'm about. Gangsta. You can find a nigga sitting on throne. Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and I'm gone. Yeah. Gianluca Scuccimarra, coordinatore nazionale dell'UDU, l'Unione degli Universitari, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, il rettore di Bologna Dionigi ha parlato di ripiego frettoloso da scuola guida. Anche voi, insomma, non è che siete tanto d'accordo con questi test d'ingresso, per usare un eufemismo? Certo, noi non siamo d'accordo da un lato sul metodo. Il metodo dei test, per come è fatto, concordo pienamente con il rettore Dionigi, è un ripiego anche semplicemente per quanto riguarda la strutturazione di questi test. Dall'altro noi contestiamo direttamente anche l'impianto, ossia l'idea per cui deve esserci una programmazione di questo tipo sul numero di accesso degli studenti all'università, e soprattutto deve essere fatto solamente su alcuni corsi, quelli dietro i quali semmai ci sono maggiori interessi o maggiore posizioni di potere. Ecco, invece Scuccimarra, come la questione dell'anticipo a primavera, secondo lei è meglio, è peggio, sta creando più disagi? Qual è l'umore della base che voi rappresentate? Di sicuro, soprattutto tra gli studenti delle scuole superiori, sta creando disagi enormi, a molti consapevoli e molti anche inconsapevoli, perché quello che noi diciamo sempre, di solito nel quinto anno e soprattutto nell'ultimo periodo della scuola superiore, si studia tutto ciò che sarà fondamentale per il primo anno di università. Quindi da un lato ci sono studenti che si rendono conto che non possono prepararsi per l'esame di maturità, devono rinunciare a una parte degli studi per prepararsi per il test. Dall'altro ci sono anche degli studenti che inconsapevolmente stanno perdendo quelle che saranno le basi fondamentali per iniziare nel migliore dei modi l'università. Dionigi, lei come lo vede questo anticipo a primavera? Ma guardi, l'anticipo, gli amici insegnanti, i genitori hanno tutti un forte scompenso, però... Però per voi università forse è meglio, perché insomma avete tutto il tempo poi in qualche modo per organizzarvi. Questo test a settembre vi creava un bel po' di problemi. No, ma il problema di settembre con le graduatorie nazionali è presto spiegato. Con gli scorrimenti ci vuole almeno un trimestre perché si assestino le graduatorie, e quindi i corsi ormai cominciano l'ultima settimana di settembre, il primo ottobre. Quindi bisogna almeno 2 mesi, quasi 3 mesi prima, fare questi test. Quindi il problema di farli durante l'esame di maturità è chiaro che viene in maniera ortogonale, gli insegnanti vengono demotivati, i ragazzi. Credo che un modo migliore ci sia e ha da essere. Però guardi, è un po' triste che si parli del settore più importante del paese, della scuola, o perché c'è un ragazzo che si suicida, o per una relazione impropria tra un insegnante e un alunno, oppure per i test che vengono. Forse, ecco, io non per far del benaltrismo, dico che prima di prendere alcune decisioni non è un trauma, cambiare, innovare, questo paese si deve abituare e tutti dobbiamo mettere da parte abitudini e talvolta anche capricci. Però ecco, le cose vanno fatte con un ritmo naturale, i processi vanno il più possibile condivisi, ma in ogni caso programmati e gestiti. Questo è arrivato addosso a dirigenti, a insegnanti, a ragazzi. Lei pensi semplicemente che bonus sì, bonus no, prove a settembre, c'è poi stato a luglio, un balletto, poi sì, ad aprile. Ecco, questa incertezza crea un panico che non è degno di un paese così che ama la scuola. Diciamo che la scuola merita, dalle risorse agli insegnanti, ai ragazzi, non parlo dei genitori che spesso fanno dei danni riguardo alla scuola perché stanno sempre dalla parte dei figli e non degli insegnanti. Sì, non tutti, non sempre. Non parlo dei genitori perché sono dei pessimi avvocati di cause non sempre giuste. Parlo della scuola, che qui il problema non siamo sempre ad aggiustare, a rincorrere e parlare in maniera scandalistico oppure in maniera sempre tormentata. E invece la scuola merita, la scuola e l'università merita di più. La scuola. Scusi Marra, prima il ministro ci ha detto che insomma non, sicuramente pensa a delle novità, ma è troppo presto per introdurle, troppo presto per dire quali, eccetera. Se dovessi dare un consiglio al ministro per migliorare questi test, quale sarebbe? Ah, riprendo una cosa che diceva prima il rettore Dionigi. Il primo consiglio per poter intervenire realmente, non tanto sui test ma sull'intero sistema, è quello di ricominciare ad investire sull'istruzione. Noi siamo abbastanza consapevoli, nonostante le nostre battaglie che dicono di eliminare immediatamente i test, di aprire il sistema, che se non si fa un investimento serio sulle strutture, sui professori, sulla docenza, non riusciremo mai veramente a liberalizzare completamente questo sistema e a permettere agli studenti di studiare quello che veramente vorrebbero e studiarlo non in maniera casuale ma con una certa qualità che deve essere garantita come ci chiede veramente l'Europa. Grazie a Gianluca Scucimarra dell'Unione degli Universitari, grazie al rettore dell'Università di Bologna Vano Dionigi, in bocca al lupo allora per domani a tutta la sua università. Grazie a lei ascoltatori, buona serata. Università speciale, test d'ingresso. Buonanotte ai suonatori, iri iri, ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, quanto resisterai? Allora, c'è qualcuno che stasera, proprio in questi minuti, sta cercando di rubarmi in qualche modo il lavoro, anche gli ascoltatori. Sono in collegamento con Giorgio De Ambrogio e Pietro Savastio. Buonasera. Buonasera. Ciao. Perché che state facendo proprio in questi minuti? Come già stiamo conducendo una trasmissione radio un po' più sfortunata, se vogliamo, che è sulla piattaforma della nostra scuola e stiamo appunto parlando di test. Sì, perché voi due siete due studenti del liceo classico Berché di Milano, che in questi giorni, appunto, facendo un po' di telefonate, informandomi, ho scoperto che proprio stasera anche voi insomma volevate parlare di questi benedetti test e insomma, che cosa sta emergendo dalla vostra di trasmissione? Noi abbiamo sentito il ministro ha detto che sta pensando a un sacco di cambiamenti, ma non ci ha voluto anticipare, ahimè, quali. Ci vuole molta riflessione, dice. Invece quali sono gli elementi che sono emersi nella vostra di trasmissione? E soprattutto, visto che voi siete al liceo, come state vivendo in questi giorni? In classe chissà quanti di voi staranno tentando questi test e staranno studiando? Dunque, allora, noi in prima persona intanto premettiamo che non faremo i test in questi giorni perché non ci rivolgiamo verso studi di altro tipo, però per preparare appunto questa nostra trasmissione abbiamo sentito e parlato con diversi dei nostri compagni che tentano medicina, che tentano veterinaria, e la cosa che è emersa fondamentalmente è il grande problema sul test ad aprile e il test a settembre, nel senso che il test ad aprile sicuramente permette poi allo studente che non riesce a passare di organizzarsi un futuro un po' più ponderato rispetto a quello che non riesce a passare a settembre e deve entrare da qualche parte per forza. Però c'è un però. Però appunto fare il test ad aprile vuol dire che gli studenti in terzo liceo che stanno cercando di preparare una maturità sono decisamente svantaggiati rispetto a quegli studenti che fuori corso stanno tentando di nuovo il test e che quindi hanno molta più possibilità di preparare il test. E allo stesso modo lo studio per il test di medicina, i nostri compagni ci dicono che durante quest'anno ha veramente rovinato la loro vita sociale, nel senso che la scuola diventava, cioè la loro vita diventava scuola e test di medicina. E soprattutto non credono e non capiscono le cose che stanno studiando e non credono che queste cose vadano effettivamente a servire. Quindi come si fa? Una battaglia nella quale si può solo perdere, nel senso che poi ne parlavamo oggi con un nostro professore e sembra appunto un momento nel quale se ti va proprio di fortuna riesci a passare, ma comunque non hai vinto niente e anzi puoi appunto solo perdere e devi riuscire a mettere i piedi in testa a 6,5 persone, quest'anno e l'anno scorso erano 8. Sì, quella è la proporzione in effetti. Ecco, ma in effetti, Giorgio, come sta andando in questi giorni lì in classe? Si sono fermate le interrogazioni, le spiegazioni? Come stanno reagendo anche i vostri insegnanti? Sono tolleranti nei confronti di coloro che in effetti sono già sotto stress per conto loro per questi benedetti test? Ma diciamo che in realtà gli insegnanti sono abbastanza divisi e combattuti tra di loro, nel senso che alcuni si sono un po' più comprensivi e cercano di agevolare gli studenti che provano il test. Dove siete finiti? Pronto? No, ci sentite? Sì, Pietro, vai. Allora, sì, ti dicevo che in realtà dipende dal professore, nel senso che alcuni cercano di andare incontro agli studenti e quindi cercare di favorirli con meno interrogazioni e non mettere verifiche appunto appena prima del test. Molti altri invece sono refrattari a fare sconti e mantengono la linea dura. Perché comunque c'è un programma da completare, insomma, no? Esattamente, molti si lamentano appunto del fatto che si va a fare un'operazione che è semplicemente a discapito dell'ultimo anno scolastico, che invece dovrebbe essere quello di maggior concentrazione. Certo. Giorgio e Pietro, voi avete a vostra volta degli ospiti, o sbaglio? Sì, abbiamo come ospiti due ex studentesse del nostro istituto che tre anni fa hanno sostenuto appunto i test, e dopo chi qualche tentativo, chi uno solo, sono riuscite entrambe. Presentameli tu, vai, fai lo speaker radiofonico, visto che lo stai già facendo questa sera, vai. Dunque, sono Sibilla Restelli e Marta Valsecchi. Allora, Sibilla, che storia ci racconti? Tu sei riuscita a entrare o sei quella che ha provato e ha avuto un po' di sfortuna? Io, ringraziando il cielo, ho avuto molta fortuna e sono passata subito. Però come parlavo prima con loro, in realtà bisogna sempre ricordarsi, so che è brutto dirlo il giorno prima, che appunto il test ingresso è il primo di tantissimi scogli, quindi non bisogna adagiarsi. E tu quindi l'hai fatto a settembre? L'ho fatto a settembre e sostengo con molta sincerità che ad aprile probabilmente non l'avrei passato, perché lo studio estivo mi è stato assolutamente fondamentale, soprattutto venendo da una formazione classica per cui è assolutamente fondamentale sopperire alla mancanza di conoscenza scientifica durante lo studio estivo. Certo. E invece l'altra nostra ospite, pronto? Pronto, io il test l'ho fatto due volte. La prima volta mi è andata male, la seconda invece bene. Quindi tu sei una di quelle che non c'è riuscita al primo colpo, ma insomma ha insistito e alla fine ce l'hai fatta, quindi un buon esempio, no? Come dire, mai mollare. Vabbè, questo sicuramente. Io ho fatto un anno di biotecnologie, per cui ho studiato fondamentalmente le materie in cui ero carente, venendo anch'io da un liceo classico, e la seconda volta diciamo che l'ho affrontato con più tranquillità, anche perché sapevo a che cosa stavo andando incontro. Certo. Secondo voi è giusto che non conti, lo chiedo a tutti e quattro, che non conti più il voto di maturità, o comunque in qualche modo questo percorso scolastico, questo curriculum scolastico, come diceva anche prima il rettore di Bologna Dionigi, va, e anche lo stesso ministro, va in qualche modo contabilizzato? Perché se quel giorno si ha un po' di sfortuna, non si sta bene, è davvero un terno all'otto. Ma guarda, rispondo io, Pietro, perché personalmente penso che tener conto anche del voto di maturità in realtà dia spazio in qualche modo a delle iniquità, perché ci sono scuole in cui magari ottenere dei voti un po' più alti riesce più agevole, più facile, invece ci sono istituti in cui magari si studia molto e si ha una preparazione anche molto valente, però i voti restano comunque bassi, magari per appunto perché la scuola ha questa fama di essere molto dura, e quindi in un qualche modo anche i ragazzi molto preparati rischiano di venire svantaggiati pur avendo una preparazione. Quindi insomma non è il voto di maturità non può essere l'unico elemento da prendere in considerazione. Vi ringrazio a tutti e quattro, vi lascio alla vostra di trasmissione radiofonica, io mi riprendo il mio di microfono, grazie mille, grazie, e in bocca al lupo a quelli che vi stanno ascoltando e che invece non siete voi, ma insomma domani il test dovranno affrontarlo o comunque nei prossimi giorni. Grazie a tutti e quattro. e non mi sentono più evidentemente, ma non fa niente. E noi salutiamo Daniele Grassucci, un amico di Radio 24, lo conoscerete senz'altro, l'abbiamo ospitato molto spesso ai nostri microfoni di scuola.net. Buonasera Daniele. Piera, buonasera. Soprattutto a tutti gli studenti che stanno vivendo ore di passione. Poveracci, stasera non è una bella serata per loro, ma insomma speriamo che davvero abbiano un po' di fortuna nei prossimi giorni. Allora, voi avete fatto un calcolo, questi test non sono soltanto una bella faticata, ma sono anche un bel esborso per le famiglie e per i ragazzi? Beh sì, ne abbiamo stimato che solo per pagare i costi di iscrizione dai portafogli delle famiglie usciranno 6 milioni di euro, che ai tempi d'oggi fanno una... Daniele, ti sento non male ma peggio, mettiti in una posizione decente, nel frattempo io rispondo ad Antonella da Brescia, ce l'abbiamo Filippo? Che è lì e che aspetta da un bel po'. Sì. Buonasera Antonella. Buonasera. Chiedo scusa per l'attesa. Niente, buonasera. Ho atteso perché la mia testimonianza io spero che serva un pochino per dare una... la vera informazione su quello che sono i test di ammissione all'università di medicina in questi ultimi 20 anni per i ragazzi. Guardi, io sono oltre ad essere la mamma di una ragazza che desidera fare il medico da quando faceva le medie, sono anche un'insegnante di scuola superiore. Quindi sua figlia domani tenta il test? A mio tempo senza il numero chiuso. Quindi premetto che sono contrarissima a questo modo di programmare le entrate, e quello che ho sentito dire prima dal ministro, ma ancora peggio dal rettore, cioè siamo qui a diciamo sulla pelle dei nostri ragazzi a parlare di risparmio, e da 20 anni questi giovani vedono veramente sgretolarsi i loro sogni. Mi permetto perché di dire che però di fare una cosa e l'ho fatta. Antonella, però il rettore di Bologna diceva proprio questo, non si può giocare sulla pelle dei ragazzi risparmiando. Ho capito signora, però l'ascolti, il problema sta comunque a monte, cioè il discorso della massa che si iscrive alla facoltà di medicina è un discorso organizzativo che è legato alle strutture, ma è legato anche, secondo me, e io ho scritto una lettera l'anno scorso al ministro, all'allora ministro Carrozza, e mi è stata pubblicata dal giornale della mia città, dove io facevo una serie di domande a questo ministro che insomma aveva combinato un po' di cose non proprio così chiare, a cominciare dal togliere il bonus il giorno del test, che mi è sembrata una follia. Però, in effetti, comunque, non si cambiano le carte in tavola mentre gioco. Esatto, mia figlia l'anno scorso ha fatto il test con delle regole, è entrata con delle regole, è uscita e le regole erano cambiate. Ecco, e quindi già lì. Però comunque le dico, signora, che secondo me, proprio come ha detto il rettore, se le cose devono andare naturalmente, allora naturalmente i ragazzi si iscrivono all'università che vogliono, e dentro le università si fa una selezione il primo e il secondo anno. Sistema francese che citava, ecco, che citava, ma io non riesco citavamo a capire prima. Perché il nostro paese non è così da 20 anni. Allora torniamo alle conseguenze di questa scelta, che la scuola, io guardi, sono nella scuola da 20 anni, è diventata classista, perché all'università di medicina i compagni di classe di mia figlia, i genitori hanno un reddito medio alto. Non si può, torniamo alle spese di cui ha parlato prima il signore di scuola.net. Io l'anno scorso ho sborsato per preparare la ragazza al test, perché pur avendo fatto un liceo buono della città, comunque un bel po' di soldi. Daniele, torniamo dunque sui costi, perché dicevamo che insomma non costano solo fatica questi test, ma anche qualche soldino. Assolutamente sì, perché ecco, poi gli studenti quando si preparano, ecco, in genere comunque devono acquistare un testo specifico per la preparazione, che è lo strumento più utilizzato dal 45%, e questo comunque ha un costo di 20-30 euro, insomma accessibile, però è un qualcosa di più. Poi ci sono quelli che devono magari ricorrere ai corsi, e i corsi hanno dei prezzi che partono da poche centinaia di euro fino ad arrivare a qualche migliaio di euro per quelli più completi, ecco, perché poi quello che bisogna sottolineare è che questo test di fatto si è un po' scollato rispetto a quelle che sono le competenze che si sviluppano a scuola. Ad esempio, nessuno degli studenti che domani si presenterà al test ha studiato logica come materia, certo, a scuola, e si studia la matematica, si studia la fisica, si studia la chimica, ma non si studia la logica, e questi quesiti di logica, che sono 23 su 60, quindi pesano per praticamente un terzo del totale dei quesiti, comunque fanno parte di una materia che ha le sue regole, i suoi modi di funzionare, e non basta il buonsenso per rispondere. Università speciale test d'ingresso. Listen up, you can be anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice, like I met a woman who's... Daniele, dicevamo, costi per sostenere il test, ma anche costi per prepararsi al test, c'è un bel movimento intorno ai corsi di preparazione test. Sì, esattamente, poi là c'è tutto un tema che chiaramente... Ma fino a che cifra arriviamo, tanto per renderci conto? Ti accennavo, dipende dalla durata del corso, è chiaro che se è un corso intensivo di un weekend magari parliamo di poche centinaia di euro, invece magari se si tratta di un corso che dura qualche mese, beh, là i costi possono arrivare tranquillamente a qualche migliaio di euro. Ci sono poi degli atenei che eseguono loro stessi dei corsi di preparazione e delle simulazioni, ad esempio recentemente anche l'Università di Tor Vergata a Roma ha organizzato proprio una giornata focalizzata alla simulazione, e anche il Ministero cerca in qualche modo di aiutare i ragazzi, perché appunto sul sito università lì c'è un simulatore online con anche delle guide, dei quesiti commentati, insomma si cerca in qualche modo di aiutare questi studenti, però è chiaro che se dobbiamo prendere uno studente e fargli apprendere una materia che lui non ha mai studiato, ci vuole del tempo e probabilmente ci vogliono degli insegnanti, ed è per questo che poi fa la differenza la disponibilità di denaro. Certo, grazie Daniele, tra l'altro domani lo ritroveremo con una sorpresa, non anticipiamo niente, domani ascoltate Radio 24, ci racconterà delle cose, diciamo, Daniele Grassucci di Scuola.net, che come sempre ringraziamo moltissimo per l'aiuto che ci dà il nostro, come dire, l'inviato nel mondo della scuola, grazie Daniele. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Invece ora siamo al telefono con Paolo Cherubini, che è il prorettore vicario alla didattica dell'Università di Milano Bicocca. Buonasera. Buonasera. Perché voi avete avuto un'idea, ovviamente non si può applicare sempre, non si può applicare a tutti i corsi, però insomma l'idea è quella di realizzare un test di accesso a distanza per alcuni dei corsi a numero chiuso. Ci racconta brevemente questa sperimentazione? E noi da quest'anno, quindi la prima volta che ci proviamo, stiamo sperimentando una modalità di test a distanza presso una ventina, 21 per l'esattezza, test garantiti dal CNEC, il consorzio informatico delle università italiane. E gli studenti si scrivono questi test in più turni, in più giornate nel corso dell'anno, in questo caso della primavera, nelle loro città, possono recarsi a sostenere il test nelle loro città, lo sostengono in una sala computer attrezzata e i risultati vengono direttamente elaborati dal CNEC e inoltrati a noi. E questo che vantaggio comporta? Beh, per i ragazzi sicuramente che non devono spostarsi e quindi non devono spendere dei soldi, eccetera, ma anche per voi ci sono dei vantaggi come università? Intendiamo sottolineare che questa è una sperimentazione, quindi dovremo vedere quanto funzionerà e quanto potrà avere successo. Se funzionasse potrebbe essere molto utile, perché tanto per fare un esempio, il rettore Dionigi diceva che bisogna trovare nuovi modi per distribuire il test in periodi meno critici per la maturità. Un'idea semplice ma attualmente irrealizzabile per i costi dello spostare materiale cartaceo da una sede centrale a tutte le università periferiche sarebbe quella di distribuire il test nel corso dell'anno. Gli studenti di medicina, quando e qualora questa modalità sia applicabile a medicina, devono sostenere il test su 3-4 materie diverse. Perché non fare 3-4 date diverse con test meno pesanti che cominciano all'inizio dell'anno e abituano lo studente a quello che è il lavoro dell'universitario, studiare per un periodo di tempo che dura più anni, non per un test che determina il tutto, che determina se si entra o se si esce. Potrebbero fare che sia biologia a novembre, sì, matematica a gennaio, fisica a febbraio. Diluirli nel corso dell'anno. Diluirli nel corso dell'anno. Secondo lei questa potrebbe essere un'idea per... Ma senza trasferimenti in altra sede, con uno studio più leggero che si può sostenere tranquillamente anche attraverso corsi erogati a distanza, non necessariamente sui libri, ma anche attraverso i cosiddetti MOOC erogati a distanza da molte università, e distribuire impegno nel corso del, non solo dell'ultimo, ma forse anche del quarto anno, potrebbe già essere una parziale soluzione. Lucio propone, un nostro ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666, che dovrebbero essere gli insegnanti universitari a selezionare in base alle capacità, rendendo più impegnativi gli esami, quindi dentro tutti, probabilmente, se capisco bene questo SMS, e poi nel corso dell'anno, come dire, selezionare. Può essere anche questa un'idea, si fa già in questo altri paesi. È un modello che viene spesso discusso, ma di cui difficilmente che fuori al mondo universitario si accorge i possibili costi, perché far entrare tutti o quasi tutti gli interessati a un corso di studio e selezionarli nel corso del tempo semplicemente perché falliscono nel loro percorso universitario è un costo non solo economico ma anche umano notevole, perché ricordiamoci che ogni studente che si iscrive perseguendo il suo sogno a un corso di laurea per il quale o perché non è idoneo o perché non è sufficientemente preparato, ma prima o poi fallisce, spende un anno o due o anche più della sua vita, spende notevoli risorse economiche che a livello nazionale diventano un investimento fallito in risorse umane e poi vive una sensazione di fallimento. Entrando in un mondo del lavoro senza il titolo di studio, senza una preparazione completa e due, tre anni in ritardo rispetto ai concorrenti. Grazie a Paolo Cherubini, prorettore vicario alla didattica dell'Università di Milano Bicocca. Poi ci farà sapere quando sarà finita la sperimentazione come sono andati questi test d'accesso a distanza. E noi chiudiamo invece con Beatrice ed Alessandro. Buonasera. Buonasera. Perché insomma abbiamo raccontato questa sera di insomma un meccanismo che sicuramente non è perfetto, un meccanismo che potrà e dovrà essere modificato, ci diceva all'inizio il ministro, ma non si sa ancora bene come. Un meccanismo molto farraginoso, una burocrazia che non vi aiuta come studenti e non vi aiuta nel vostro percorso formativo. Per esempio, a voi è successa una cosa particolare, no? Volevate cambiare università, volevate cambiare città, non università nello specifico, ossia continuare la facoltà di medicina ma in un'altra città, e vi dicevano di no, non si poteva, non c'era spazio, non c'era tempo. Beatrice, rispondimi tu, che cosa avete trovato poi un escamotage, che non è un modo per, come dire, fregare le università, però insomma avete trovato un modo per farlo lo stesso, quello che volevate fare, cioè trasferirvi? Certo. Noi non potevamo trasferirci perché fondamentalmente i posti non ci sono e diciamo questa cosa è imprescindibile e non c'è niente da condannare. Allora che avete fatto voi, visto che non vi prendevano perché non c'era posto nell'università a cui volevate passare? Noi abbiamo fondamentalmente rifatto il test, l'abbiamo passato nella città in cui volevamo andare e abbiamo continuato a studiare perché ci hanno convalidato gli esami e siamo automaticamente passati all'anno in cui volevamo andare. Quindi Alessandro, sostanzialmente, se ho capito bene, avete risostenuto il test nell'università alla quale volevate passare. Siete entrati, in effetti, vi hanno convalidato gli esami e quindi siete riusciti a ottenere comunque il vostro obiettivo. Sì, ci siamo riusciti, anche se alla fine abbiamo dovuto imbrogliare questo sistema che, insomma, per la burocrazia che c'è, è un po' tutto ingarbugliato, un po' tutto inceppato, insomma, un po' tutto così macchinoso che noi ci siamo trovati costretti a fare. Avreste voluto modo. Farlo in maniera più lineare, insomma. Grazie ad Alessandro e Beatrice, grazie a Cristian Goldoni in redazione, Filippo Aureggi in regia. Si chiude qua questo speciale dedicato ai test d'ingresso, in bocca al lupo a tutti gli studenti che da domani iniziano questa avventura. Un saluto da Maria Piera Ceci.